Thank you. Thank you. Sí, ahí está. Si c'ha rai, tio, pigiavro, ho sognato. Hai dei grossi. Ma te sei devota. Oddio. Vedi che ti mangi tu. Sì, a camminare la maglia, le donne non lo sanno. E per tua mamma, quella sono via questa quella. Un grosso ghiba. Bisba! Io? Non è voglio, ma mi stessa dai. La mia non sono da bicicletta, tutto una... Mi ho chiuso... Gli cicám. Jó vagy?